caloroso benvenuto a tutti. Caloroso è proprio giusto. Scientificamente dimostrato che arriviamo sempre alla fine del primo semestre con, ecco, caglienti. Allora, questa iniziativa si inquadra sempre nelle nostre attività settimanali di promozione alla lettura e pertanto, oltre a presentare il lavoro di Ragazzoni con la moderazione dello storico il professor von Hartungen, abbiamo anche preparato la nostra solita lista di libri, suggerimenti bibliografici, le vetrine tematiche legate al tema. E diciamo, questa iniziativa si collega anche a quello che avevamo iniziato ancora in marzo con Franzina, che era venuto una sera qui da noi, il professore di Verona, e aveva illustrato i canti popolari, il risorgimento attraverso appunto questi canti che hanno unito anche l'Italia e accompagnato la nostra unità. Era stata anche una serata diversa. Adesso invece entriamo nell'aspetto più storico e più vicino a quello che è il nostro territorio, scoprendo anche la figura di Camillo Zancan. Vi invito anche ad iscrivervi a questa biblioteca. Scusa. Io lo farò subito, non sono ancora iscritto, quindi la mia mancanza per finita la manifestazione. È una biblioteca pubblica, quindi i servizi che noi eroghiamo sono gratuiti e l'iscrizione per noi è importante perché è l'unico modo che abbiamo per contattarvi direttamente e comunicarvi le nostre iniziative tempestivamente, perché non sempre si riesce a ottenere gli spazi pubblici sui giornali, quindi per dare una comunicazione di un'iniziativa a favore del pubblico noi chiediamo anche di eventualmente di aderire come iscritti a questa biblioteca. Il prossimo appuntamento l'avete visto sulla sedia, lasciamo sempre la cartolina della prossima settimana. La biblioteca termina il primo ciclo di iniziative di promozione alla lettura con il 17 di giugno. Non sarà la sera ma sarà alle 11 con un aperitivo di saluto, ecco, e la presentazione di una raccolta di poesie. Intanto ringrazio ancora Achille Ragazzoni, il dottor Achille Ragazzoni, ringrazio il professor von Hartungen di essere venuto anche questa volta ad accompagnarci in questo cammino di conoscenza storica anche del nostro territorio. Vi auguro una buona serata e vi invito a tornare anche a consultare i nostri libri e i nostri servizi. Grazie. Grazie. Allora, gentili signori, chiaramente non è che io e von Hartungen ci vediamo qua per la prima volta, ci siamo telefonati anche qualche giorno fa e abbiamo deciso come organizzare il lavoro. Rientra, come ha detto la dottoressa Trevisan, nelle iniziative culturali per il 150esimo dell'Unità d'Italia. Siamo messi assieme, è stata la dottoressa Trevisan che mi ha contattato ancora all'inizio dell'anno con alcune associazioni, la Dante Alighieri, l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo, che c'è qua il Presidente Generale Spampinato, e l'Istituto per la Storia del Risorgimento che rappresento, e altre poi associazioni che si sono, l'associazione La Stanza, ripeto, qua c'è Piero Marangoni, e altre associazioni si sono messe assieme per iniziative particolari, e anche la dottoressa Trevisan, con molta cortesia, come al suo solito peraltro, ha detto che la Biblioteca Provinciale Lingua Italiana era disposta. Adesso il 16 marzo ho tenuto una conferenza assieme allo storico Hans Heiss su Mazzini, io ho parlato di Mazzini e della cooperazione, mentre Hans Heiss al pubblico di lingua tedesca ha illustrato in maniera molto precisa e molto obiettiva il pensiero di Mazzini al pubblico di lingua tedesca, ci ha da levarsi dato di cappello. Poi i giornali, siccome i giornali ragionano per schemi, siccome sono un po' mio malgrado, magari un personaggio, Ragazzoni ha parlato dell'attività patriottica di Mazzini, mentre Heiss ha illustrato il pensiero sociale di Mazzini, invece è stato proprio il contrario, ma siccome stava più attaccato meglio al mio vestito che spiegasse l'attività patriottica di Mazzini, i giornali hanno scritto così. Poi i giornali hanno passato sotto silenzio completamente l'iniziativa ufficiale concordata con il commissariato del governo, la lezione magistralis che ho tenuto il 17 marzo al circolo militare sul contributo della Svizzera all'Unità d'Italia, che ripeterò un po' diversa alla Società Svizzera di Milano il 24 novembre. Siccome né io né gli altri miei amici non abbiamo offeso nessuno, non abbiamo insultato nessuno, non abbiamo provocato nessuno, allora non avevamo diritto allo spazio sui giornali, mentre hanno avuto altri personaggi che si sono distinti per cose un po', a mio avviso, meno serie. Comunque questa è un'iniziativa che rientra in questo ciclo che durerà per tutto questo anno 2011, ci sono varie iniziative in programma, altre sono ancora in fieri ma le programmeremo, quindi anche quest'anno anche la nostra provincia avrà ricordato il 150° dell'Unità Nazionale. Dicevo che con l'amico Hartung von Hartung ci siamo sentiti poco tempo fa, abbiamo deciso di, per rendere anche meno noiosa questa chiacchierata, di dividerci un po' i compiti. Christoph parlerà di come il Risorgimento è stato recepito in Alto Adige. È chiaro che questa era una zona periferica rispetto al resto d'Italia, periferica rispetto anche all'impero d'Austria. Si dice impero austro-ungarico sempre, ma fino al 1867 è sbagliato, fino al 1867 era solo impero austriaco. Poi nel 1867, per evitare che l'Ungheria facesse quello che hanno fatto i sudditi italiani dell'impero, venne data una formale indipendenza, che formale neanche tanto, per certe cose era anche sostanziale. L'Ungheria aveva una propria bandiera, un proprio inno nazionale che era diverso, anzi era addirittura vietata in pubblico l'esecuzione pubblica dell'inno Serbi Dio l'Austriaco Regno, e il Francesco Giuseppe era imperatore d'Austria e re d'Ungheria, era solo tra virgolette re d'Ungheria. Allora vennero ovviamente amnistiati tutti i patrioti ungheresi che avevano combattuto contro l'Austria, alcuni erano ufficiali dell'esercito austriaco che aveva disertato, erano diventati generali dell'esercito italiano, e gli venne ricostruita la carriera, tant'è vero che un garibaldino, il generale Stefano Tür, era generale contemporaneamente, dopo 1867, e dell'esercito italiano e dell'esercito ungherese, che l'Ungheria aveva anche un proprio esercito. Era una zona periferica sia per quanto riguarda l'Italia in senso lato, sia per quanto riguarda l'Austria, e quindi non poteva avere una partecipazione in nessun senso se non indiretta alle vicende risorgimentali. Ci fu qualche attuatesino di madrelingua italiana, e poi dopo vedremo magari tra due decenni anche qualche mistilingue che partecipò alle imprese del Risorgimento, ma furono casi sostanzialmente isolati, come appunto quello di Camillo Zancani, poi ne parlerò. Ma l'amico Christoph magari ci inquadra meglio come il Risorgimento è stato recepito nella parte meridionale del Tirolo. Il Tirolo allora comprendeva il Tirolo, quello che è oggi l'Alto Tirolo dell'Austria, quello che oggi è l'Alto Adige, quello che oggi è Trentino, più qualche altro piccolo territorio che ne è stato staccato, annesso poi alla provincia di Brescia, la provincia di Belluno, e così. Questo era il Tirolo storico. Ecco, ti lascio la parola a Christoph. Grazie. Allora, anche se la provincia del Tirolo era molto periferica all'Austria, cioè era il lembo più ad occidente del grande impero austriaco, era, ciò non di meno, era molto importante, perché era la terra d'Austria che collegava direttamente con il regno lombardo-veneto, che dal 1814-15 faceva parte dell'impero d'Austria. E perciò era quest'Alto Adige, o questo Land Tirolo, questa contea del Tirolo, era molto molto importante, soprattutto erano importanti i collegamenti stradali, perciò l'Austria negli anni 30 e soprattutto 40, 840 ovviamente, ha investito molto molto in strade, costruendo quasi ex novo la strada del Brennero, da Innsbruck fino a Verona in pratica, poi costruendo ex novo quasi la cosiddetta strada d'Alemania, che passava dalla Pusteria per Cortina e poi scendeva verso Venezia, e poi addirittura uno dei primi lavori stradali era la famosa strada dello Stelvio, inaugurata nel 1825, costruita da un ingegnere bresciano, che appunto ha fatto questa, è stato un è tuttora un monumento della tecnica stradale che cerca in Europa, forse in Sud America, sulle Ande ce ne sono altre, sì, un po' più lunghe, un po' più impervie, ma che in Europa cerca cerca veramente una costruzione parallela, poi pensando che questa strada dello Stelvio era il collegamento più breve tra Vienna e Milano in pratica, no? Ed era aperta tutto l'anno. Se pensiamo oggi con il progresso della tecnica, non siamo in grado, ancora chiusa, credo che sia ancora chiusa, e allora era aperta tutto l'anno con il lavoro dei cosiddetti cantonieri che a centinaia spalavano neve per mesi, poi venivano spazzati via anche dalla valanga, cioè anche a spese, diciamo, finanziarie e umane ragguardevoli, no? Ma comunque in questo senso per il Tirolo sono passati molti, soprattutto le truppe austriache, che venivano spesso avvicendate, perché il grosso dell'esercito austriaco era stanziato in Italia, soprattutto nel Lombardo-Veneto, ma per evitare che ci fossero troppi collegamenti con le persone del luogo, avvicendavano regolarmente queste truppe che dalla Galizia o dall'Ungheria passavano per il cosiddetto triestino, per il litorale adriatico, passavano per il Tirolo eccetera, perciò era un continuo andare e venire. Inoltre anche c'erano la prima truppa regolare tirolese, i cacciatori imperiali o Kaiserjäger, fondate nel 1816, che sempre dal 1818 avevano sempre, anzi dal 21 quando scoppiavano i primi avevano sempre almeno un battaglione, se non due battaglioni, stanziati in qualche parte della penisola, da Napoli fino ad Alessandria, dove anche passavano un certo nel regno sabaudo. Perciò anche se il Tirolo era molto politicamente, ma anche economicamente a livello più basso del suo sviluppo, cioè dall'epoca di Maria Teresa si è iniziata una fase discendente che si è acuita durante i periodi napoleonici, e che prima del 1867, quando venne inaugurata la ferrovia, o venne completata la ferrovia del Brennero, il Tirolo è sempre più povero, sempre più ai margini, e anche non solo economicamente ma anche politicamente. Ma nonostante ciò, anche qua i primi sentori di nuovi movimenti politici ce n'erano, anche se pochissimi. C'era un movimento, diciamo, liberale, nazionale liberale tedesco, sia Bolzano, che è collegato anche a quello di Innsbruck. Qui a Bolzano una delle giovani leve, era un giovanotto, certo Streiter, che poi diventerà sindaco, ma in quel periodo che in tedesco si chiama Vormärz, no? Il periodo prima del marzo, perché nel marzo del 48 scoppia il 48, no? Questo periodo metternichiano o reazionario in italiano, lì c'erano alcuni personaggi come Streiter. Altro discorso ovviamente è il Trentino, perché lì i collegamenti con il resto del territorio, non si può ancora dire nazionale, ma comunque con il territorio italiano, degli stati italiani, come si diceva allora, era molto più stretto, molto più contatti anche politicamente. E quando scoppia il 48 ci sono dei moti, grossi moti nel Trentino, qualcosa poco a Bolzano, un po' di più ad Innsbruck, perché soprattutto contro i gesuiti, che erano odiatissimi in quegli anni. Questo, il 48 ha tre i rivoluzionari del 48 hanno tre idee principali: c'è l'idea nazionale, c'è l'idea democratica, di uno Stato democratico con le libertà democratiche, e c'è anche l'idea sociale, che però allora era molto minoritaria e soprattutto nelle zone a più alta industrializzazione, che qua non ha avuto pochissimo peso. Ma i liberali, l'ideale liberale dello Stato liberale, dei valori democratici, così via con la censura, libertà di culto, libertà di pensiero, tutto questo anche qui era sentito, sebbene da una minoranza cittadina. E qui si inserisce il 1848, scoppia la rivoluzione dappertutto, nel cosiddetto impero d'Austria, nelle grandi metropoli, da Vienna, Praga, Graz, Budapest, in Ungheria non ne parliamo, e chiaramente anche e soprattutto nelle zone del Lombardo-Veneto, sia soprattutto Milano e Venezia, ma in questo caso anche di altre città. E qui naturalmente poi inizia una scissione di questi movimenti, che avrebbero potuto anche dal punto di vista liberale avrebbero potuto anche andare insieme per parecchia strada, perché i trentini chiedono, i liberali trentini molto più numerosi, molto più impegnati, molto più agguerriti possiamo dire, chiedono lo stacco del Trentino dal Tirolo e l'aggregazione al Regno Lombardo-Veneto, perché dicono abbiamo più legami con questi, con Innsbruck non andiamo d'accordo, eccetera eccetera. E questo distacco, questa diciamo scissione o amputazione, come allora si diceva, del Tirolo, porta al fatto che questo movimento anche liberale locale presto si diventa soprattutto un movimento nazionale in difesa della nazione. Questo poi era la contraddizione, in difesa dell'unità storica del Tirolo, come si diceva allora, che il Tirolo da sempre era unito da Kufstein fino ad Ala o Porghetto, qual dir si voglia, che storicamente non è, ma era un bel mito, anche se storicamente non era così proprio, però un mito che attaccava molto, che prendeva molto vigore. E qui succedono cose anche strane, no? Che gli studenti tirolesi che studiavano a Vienna, che si erano, come tutti gli studenti universitari viennesi, si erano ribellati contro la censura, contro la dittatura militare o il potere militare, subito si sono riuniti in un corpo franco, venendo qua ad aiutare con gli Schützen tirolesi il maresciallo Radetzky a combattere contro gli insorti, contro i ribelli italiani, perché si metteva in gioco l'unità del Tirolo. Questo ha creato dei presupposti che questa l'unità nazionale italiana, che progressivamente stava affermandosi dopo la sconfitta del 48, arriva il 59, e lì nasce, nel 61 nasce lo Stato italiano, ai confini c'è lo Stato nazionale che ha il programma di raccogliere all'interno del suo Stato tutti gli uomini di lingua italiana parlanti l'idioma di Dante, come allora si soleva spesso dire, no? E in questo senso minacciando quello che si riteneva l'unione indissolubile e storica del Tirolo. E perciò anche nel 59 gli Schützen sono stati richiamati alle armi per difendere i confini minacciati soprattutto da Garibaldi, dai cacciatori delle Alpi verso lo Stelvio, l'Alta Val Venosta, che però non hanno fatto in tempo, perché la guerra era non proprio una guerra lampo, ma quasi, no? Nel senso che si è conclusa dopo la battaglia con un armistizio lampo, questo sì si può dire, con l'armistizio di Villafranca, dove Napoleone III è uscito di scena lasciando così eccetera, cioè il Veneto all'Austria. E poi arriviamo al 66, dove c'è questa guerra ai confini, no? Dove di nuovo Garibaldi che entra nel Trentino, ci sono correnti combattimenti, e anche gli Schützen sempre mobilitati in difesa dell'unità del Tirolo, e questo crea un po' l'immagine influenza pesantemente l'immagine dell'unità d'Italia, un'unità che uno Stato a sud che è diventato più grande di quello che mai si fosse pensato, e che adesso sta per minacciare nel 66 molto pesantemente, perché non c'era né solo Garibaldi ma anche il generale Medici, che della Valsugana è entrato quasi arrivando quasi fino a Pergine, e minacciando, diciamo, questo Tirolo. E poi chiaramente c'era anche una parte di propagandisti, di geografi, di storici, di studiosi e anche politici italiani che dicevano: ma l'Italia è uno dei pochi stati che ha chiari e netti confini geografici, e quelli sono uno di quelli più pesanti è la catena delle Alpi e la teoria del displuvio che si stava sempre più diffondendo e prendendo piede. Anche Mazzini era un fattore di questa tesi, no? Che anche se all'interno abitavano certe popolazioni non di lingua italiana, comunque l'Italia avrebbe dovuto raggiungere il confine geografico, che comprendeva anche, non so come l'hanno preso poi gli svizzeri, avrebbe compreso anche parte, tutta la Svizzera, diciamo il Ticino e anche altre parti della Svizzera italiana. Su quello hanno glissato abbastanza, perché col fatto che il Ticino è stato terra di rifugio, sì. Un solo politico militare, che poi divenne un politico, reclamò il Canton Ticino, a quanto mi risulta in quell'epoca lì, Nino Bixio, in un discorso in Parlamento. Sì, che sì, non sì. A caso poi siciliano, molto lontano. Nino Bixio era genovese. Ecco, perché gli altri sono stati abbastanza zitti, col fatto che il Ticino proprio divenne una terra di rifugio, si poteva stampare libri proibiti addirittura nello stesso regno di Sardegna, si potevano pubblicare il Ticino, sul Ticino hanno glissato abbastanza, su quella è stata messa la sordina su quel. Ma comunque sì, appunto, sì. Che poi era una, sì, una delle appunto dei motivi che poi soprattutto nel Novecento ha creato un'altra situazione un po' più drastica o tragica. Ma comunque in questo senso l'immagine, cioè è una, i tirolesi, sudtirolesi, altoatesini in lingua tedesca erano molto critici, anche se erano, essendo nazional tedeschi, nazional liberali germanici, erano anche, avevano anche una certa ammirazione per l'Italia, perché anche la Germania aspirava, e con essa anche l'Austria tedesca aspirava all'unità nazionale, e nel 1861 l'unità nazionale italiana, pur imperfetta perché mancava Roma, mancava il Veneto, mancava Parigi, però è stata fatta, mentre l'unità nazionale germanica non ce n'era l'ombra, perché solo nel 1864 diventerà presidente del Consiglio dei Ministri della Prussia un certo Bismarck, e solo da allora l'unificazione nazionale germanica inizia a partire, diciamo così. Cioè, tutte e due le immagini, cioè da una parte una paura, preoccupazione per questo Stato che forte, grande, che nasce o che si installa a sud e che minaccia non solo di prendersi il Trentino ma addirittura di arrivare fino al Brennero, dall'altra parte ammirazione per quello che gli italiani hanno saputo fare, con tutte le imperfezioni che qui non discutiamo, hanno saputo fare 10 anni prima poi cose fatte dei germanici, e i germanici che hanno fatto un'unità nazionale per gli austriaci molto imperfetta, perché era la cosiddetta soluzione piccolo tedesca, c'era la soluzione della piccola Germania e la soluzione della grande Germania, la grande Germania che poi ha realizzato uno, non mi ricordo il nome, sì, uno che voleva dire tutti i germanici di lingua tedesca in un regno, anche l'Austria, mentre Bismarck più cautamente e più politicamente più accorto si era detto: questo forse è impossibile realizzare, noi ci accontentiamo della piccola Germania, lasciando fuori del territorio nazionale un circa 10 milioni di gente di lingua tedesca che erano gli abitanti dell'Austria, allora sì, impero austro-ungarico dal 1966. Questo un po' in breve la posizione o l'influenza o l'impatto che ha avuto l'unità nazionale nelle nostre regioni, nelle nostre province. Grazie, lui è stato molto chiaro come suo solito, molto preciso pure nella sintesi, perché non è che possiamo stare qua fino a domani mattina a parlare. E per quanto riguarda il risorgimento qua, io imbattendomi mi sono imbattuto in alcuni personaggi di cui non supponevo neanche l'esistenza, non supponevo neanche i legami con la nostra provincia. C'era a Milano dagli anni 80 fino alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, dagli anni 80 dell'Ottocento fino alla Prima Guerra Mondiale, il circolo degli immigrati trentini, no? Che pubblicavano i loro giornaletti, e c'erano articoli di tutti i generi, dalla festa di beneficenza per l'Italia a articoli anche di carattere politico, che qua ovviamente era pericoloso pubblicare. E c'erano pubblicato anche un opuscolo con l'elenco dei trentini che hanno partecipato al Risorgimento, e si notava che c'erano anche, per me sono solo dei nomi, ho provato a fare delle ricerche ma non si sa molto, il sergente Pietro Baroni di Bronzolo dell'esercito meridionale, e il tale di Lives, che è chiamato ancora Lifers perché non si era stato trovato il nome, alcuni nomi esistevano anche allora, alcuni nomi erano riconosciuti, dico tanto per essere chiari, alcuni nomi erano riconosciuti anche dalla stessa amministrazione austriaca. C'è un libro che a Vienna si trova, qua è introvabile, non so se è stato fatto sparire apposta o non è stato conservato in sua biblioteca, è un libro la cui lettura non consiglio perché è come leggere l'eco telefonico, tutti gli uffici postali e le zone postali dell'impero austriaco e del regno d'Ungheria, e tutti i nomi delle località, come si potevano scrivere le località, e ci sono diverse località, non so, se da Vienna volevi mandare un telegramma a Degna potevi indirizzarlo a Degna, da Milano dovevi indirizzarlo a Neumarkt perché a Milano non ammettevano il nome Egna, tanto per essere precisi anche su queste cose. Allora alcuni, soprattutto nella bassa Tesina, erano concentrati questi altoatesini di lingua italiana che hanno partecipato al Risorgimento. Poi al cimitero di Staglieno c'è una tomba, non molto distante dalla tomba di Mazzini, dove sono tutte le persone famose, evidentemente è morta lì, è stata sepolta lì, una certa Caterina Strasser. Questa Caterina Strasser è nativa di Lana Ladige, e a Bronzolo conobbe suo marito che veniva dalla Valle di Fiemme, un tale Bronzetti, una famiglia come tante famiglie, forse anche la tua, magari, che ha avuto degli servitori del regno di Baviera all'epoca napoleonica, degli servitori delle Polonie e combattenti per l'Italia, la famiglia Bronzetti, no? La famiglia Bronzetti, un loro zio era un famoso archeologo che ha fatto dei lavori di archeologia al tempo del regno di Baviera, poi si naturalizzò bavarese, così. Questo Bronzetti della Val di Fiemme sposò sta Caterina Strasser di Lana Ladi, di Lana, che poi sta a Bronzolo, e fece i figli, i fratelli Bronzetti, che sono dei famosi eroi del Risorgimento. Senza retorica, perché a me la retorica non piace, comunque i fratelli Bronzetti in Italia meridionale, sotto il Volturno, da soli morirono in circa 300 come leoni dalle Termopili, ma senza retorica, perché andò proprio così, tentando di fermare dei reggimenti borbonici. Gli venne offerta la resa, il fatto è documentato, non sto inventando niente, gli venne offerta una resa più che onorevole, loro rifiutarono di arrendersi e caddero armi in pugno, e questi fratelli Bronzetti con la loro madre parlavano la lingua materna, la lingua della mamma vuol dire, cioè il dialetto tirolese. Ecco, ed è interessante vedere come, quando ho detto dei mistilingui anche oltre anche degli italiani, i fratelli Bronzetti erano mistilingui, non erano dal punto di vista della lingua esclusivamente italiani. E il comune di Bronzolo in autunno vorrà partecipare anche lui alle commemorazioni per l'Unità d'Italia, e vuole appunto ricordare questa figura. Se si riuscisse a trovare, forse si riesce a trovare anche la casa dove ha abitato Caterina Strasser, e vogliono metterci una lapide, forse, questo non è del tutto sicuro. Poi ci sono delle cose un po' strane, nell'armistizio Lampo, quando i garibaldini arrivarono allo Stelvio, e ci fu anche Ippolito Nievo, che poi perì tragicamente, sparì in mare con il piroscafo Ercole, e dicono che sia stato uno dei primi omicidi di Stato, perché aveva scoperto delle cose, appalti e cose strane successe all'epoca della dittatura garibaldina in Sicilia, avendo fatto, era il capo dell'intendenza dei Mille, avendo trovato queste cose le voleva portare a Napoli, partì con questo vapore Ercole che pare che sia esploso in mare. Adesso è diventato protagonista, ma la storia di fantasia, di un romanzo cui lettura è piuttosto pesante, di Umberto Eco, l'ultimo romanzo di Umberto Eco, e di cui tira fuori anche chi è che ha fatto saltare per aria il vapore Ercole, un recente segreto, prima Sabaudo e poi francese, che ecco. E, il cimitero di Praga si chiama questo romanzo, si parla di queste cose qua, però è tutta di fantasia. Ecco, Ippolito Nievo scrisse Gli amori garibaldini proprio sullo Stelvio, al tempo dell'armistizio, e c'è una leggenda, non si può dire leggenda metropolitana perché in Valle Nostra metropoli non ce n'è, che io però una leggenda che circolava almeno una trentina d'anni fa, quando io la raccolsi, e dissero che Garibaldi era al tempo dell'armistizio, era sceso dalla parte altoatesina dello Stelvio e si era fermato a mangiare formaggio in una valga con dei pastori. Probabilmente non era Garibaldi, era qualche ufficiale garibaldino con la barba, allora tutti quanti, quasi tutti, portavano la barba e i baffi, ecco, era pochissimi, no? Erano glabri in volto, e probabilmente c'è stato qualche contatto, perché anche nel 66, con l'armistizio del 66, ufficiali garibaldini erano invitati da ufficiali austriaci a mangiare in un ristorante di Riva del Garda e viceversa, perché allora anche qui non voglio fare nessuna retorica, perché la guerra è sempre e comunque brutta, però c'erano determinati valori nella società ottocentesca che oggi sono andati completamente persi. Adesso il nemico, diciamo che adesso abbiamo raccolto i cascami della peggiore cultura giacobina della Rivoluzione Francese, il nemico va odiato, non è più neanche un essere umano, non so, io ho visto come anche oggi, anche paesi che si vogliono dire civili, quando la prima guerra del Golfo, non l'ultima, quando sono andati a firmare l'armistizio i generali iracheni, ho visto un filmato, non ho sentito le parole perché era muto, trattati come pezze da piedi, non come dei commilitoni, un vero militare, nell'Ottocento almeno il nemico che si era reso era un commilitone sconfitto, era considerato quello, né più né meno, invece adesso è considerato il pezzo da piedi, poi non ci si può lamentare se dopo vincono gli altri e fanno a noi le stesse cose, ecco, dopo non bisogna lamentarsi perché come si è sempre ripagati della stessa moneta. Allora non era così, un altro episodio che vi posso raccontare, un episodio portato in molti libri di storia, quando nel 66 i garibaldini varcarono il confine tra Tirolo e Lombardia, Ponte Caffaro a sud di Storo, c'era una piccola pattuglia, siccome era poco difendibile, gli austriaci si erano ritirati un po', c'era una piccola pattuglia a presidiare Ponte Caffaro, e il comandante dei garibaldini era un ufficiale friulano, Cella si chiamava, di Udine, e si sfidò a duello con l'ufficiale austriaco. L'ufficiale austriaco perse perché un cagnaccio che girava lì attorno, eccitato e irritato da questi combattimenti, gli animali si nervosiscono subito, morse nelle natiche l'ufficiale austriaco, probabilmente per caso, perché era lì, se no avrebbe morso l'ufficiale garibaldino se si fosse trovato in questa posizione, quello dovette mollare, il duello, che era il duello individuale, segnò la resa anche per i suoi uomini, e quando questo venne portato via all'ospedale militare e assicurato delle sue ferite, poco nobile, un posto poco nobile del proprio corpo, chiese chi era chi l'aveva battuto, è uno ex dei mille, e si disse orgoglioso di essersi battuto a duello con uno dei mille. Ecco, questa era la mentalità che vigeva allora, ecco, senza voler fare la retorica, perché ripeto, la guerra è sempre e comunque brutta, una brutta cosa, allora c'è determinati valori, quindi c'è anche più rispetto per l'avversario, quindi si può anche capire, come ha spiegato lui, l'ammirazione di gente che combatteva contro l'ideale nazionale italiano, perché riteneva proprio dovere farlo, però ammirava lo stesso gli italiani per quello che erano riusciti ad ottenere. Allora la gente ragionava in maniera un po' diversa, e non dico più giusta, più sbagliata, ma senz'altro diverso da come si ragiona oggi, in cui il cosiddetto nemico deve essere distrutto assolutamente e non ha nemmeno la dignità di essere umano. Ecco. E poi sempre per quanto riguarda la Venosta c'è un libro che è stato ristampato parecchie volte, un libro che è uscito nel 1882, oggi questi libri si definiscono instant book, perché evidentemente non c'è una parola italiana per definirli, bisogna usare la parola inglese, e quando morì Garibaldi un giornalista di nobile famiglia lombarda, di famiglia lombarda che vantava qualche quarto di nobiltà, Felice Venosta, il cognome indica da dove la famiglia era originaria, scrisse un libro sulla morte di Garibaldi, e nell'appendice di questo libro si apprende che questo Venosta, la famiglia di questo Venosta, ha delle proprietà terriere in Val Venosta, appunto, dove lui va spesso, e c'ha dei pascoli, evidentemente, da come descrive, c'ha dei pastori tirolesi, e sottolinea tirolesi tedeschi, perché all'epoca tirolesi venivano chiamati anche i trentini, no? Perché il termine trentino era già in uso, ma non era ancora diffuso, anche quando Garibaldi nel 66 arriva, lancia proclami da Storo e da Bezzecca ai tirolesi italiani, ai fratelli tirolesi, eccetera, dice così, lo dice senza, non c'è nessuna cosa politica, anche i trentini venivano chiamati tirolesi o tirolesi italiani, e quello sottolinea tirolese tedesco, e gli fa vedere che c'ha una pipa intagliata con l'effigie di Garibaldi, e si definisce questo pastore un grande ammiratore di Garibaldi, anche se il parroco ne parla sempre male, anche se il parroco ne parla sempre male, io Garibaldi lo ammiro molto perché fa tanto, ha sempre fatto tanto e fa tanto per la povera gente. Quindi ecco, questo è solo un aneddoto che Felice Venosta ha messo in questo libro, l'altro libro non è granché bello, però non aveva alcun motivo di inventarselo, non aveva alcun motivo di mentire. Ecco, questo ve lo racconto solo a puro titolo di curiosità, volevo portare il libro, leggervi il brano, ma me lo sono dimenticato a casa nella fretta di venire, è rimasto sul mobile accanto alla porta, vabbè. E parliamo adesso di Zancani. Zancani fu l'unico altoatesino che partecipò all'impresa dei mille, non fu l'unico altoatesino garibaldino, perché ho ricordato Pietro Barone di Bronzolo, alcuni altri nell'esercito meridionale, ma i mille, per mille si intendono, poi in realtà furono 1089, quelli che si imbarcarono a Quarto e sbarcarono a Marsala. Gli altri che sono venuti dopo, anche se magari sono coperti di gloria più dei mille propriamente detti, sono niente, garibaldini di seconda categoria. I mille si consideravano l'elite del garibaldinismo. Questo Camillo Zancani nasce a Degna nel 1820, dove il padre gestiva un'osteria, l'osteria all'Agnello, zum Lampl nel dialetto locale, e ancora oggi, ma qualche anno fa, quando uscì questo libro, ecco, questo libro è inutile, non è la presentazione di un libro che è esaurito, poi ci sono anche degli errori che vi dirò, però può essere l'anteprima della presentazione di un libro che voglio far uscire entro pochi mesi, perché in maniera del tutto fortuita sono venuto ad avere per le mani un diario inedito di Camillo Zancani degli anni 60, del 63-64, e è incredibile come sono certi casi della vita. Un giorno mi telefona un signore in farmacia, sono farmacista, e mi telefona: lei, dottor Ragazzone, si è occupato di Camillo Zancani, mi hanno detto, al Museo di Storia Contemporanea di Trento, l'ex Museo del Risorgimento. Sì, e sai, io ho il diario, perché Zancani è morto in casa di antenati di mia moglie a Venezia, e io sono a Modena, siamo a Modena, e possiedo il diario di Zancani, che molto cortesemente ha fotocopiato e mi ha mandato. Ma la mia sorpresa è stata che questo signore, che ha l'originale, solo fotocopia di Zancani, è figlio, non lo sapevamo, ne abbiamo scoperto parlando, di un commilitone di mio padre che ha fatto la guerra assieme a mio padre, a cui mio padre era molto legato, oltretutto morto una decina d'anni fa. Guardate com'è veramente strana la vita, che proprio questo qua, anche tutte le decorazioni di Zancani, che poi andrò, mi ha mandato le fotografie, poi andrò a fotografarle meglio, e in questo libro, che magari grazie alla dottoressa Trevisan, quando sarà uscito, ripresenteremo qua, ci saranno questo diario inedito di Zancani e le foto con tutte le decorazioni, che non erano poche, perché era molto coraggioso, quasi fino all'incoscienza, e venne decorato della croce dell'Ordine Militare di Savoia, per lui repubblicano fino a midollo. Molti repubblicani all'epoca le rifiutavano addirittura queste decorazioni, questo secondo me sbagliavano, perché l'Italia è una, repubblica, monarchia, non c'entra niente, l'Italia è una, e è stato premiato per il suo valore dal governo che c'è. Se c'è un re, la decorazione non te la può dare un Presidente della Repubblica, se c'è un re. Quindi, comunque, lui l'accettò, la croce dell'Ordine Militare di Savoia, due medaglie d'argento a valore militare e altre decorazioni minori. Nacque a Degna, dove il padre gestiva una trattoria, un'osteria, l'osteria L'Agnello, Zum Lampl, e a 20 anni andò a lavorare come agente di commercio presso una casa di Trento che produceva stoffe, tanto è vero che nel 1840, all'inizio del 1848, al ballo di Capodanno, mi sembra, del 1848 a Bolzano, quando questi giovani liberali, tra cui Streiter, il dottor Streiter, a cui c'era intitolata quella che era la via dei Carettai, oggi si chiama via dottor Streiter, e un sindaco di Bolzano non l'ultimo perché fece parecchio per Bolzano e probabilmente a questo ballo c'era anche lui, fornì le stoffe per le cravatte tricolori francesi con cui i giovani liberali volevano dire che si ispiravano dal punto di vista delle libertà, dei valori liberali e democratici alla Francia. E questo Zancani si mette in luce a Trento però quando scoppia l'insurrezione il 19 marzo 1848, giorno di San Giuseppe, scoppia l'insurrezione, chiedono l'annessione al Regno Lombardo-Veneto, poi dopo ritorna la calma e lui si arruola nei Corpi Franchi. I Corpi Franchi erano delle unità militari che combattevano per la liberazione del Veneto. Il Corpo Franco a cui lui si era aggregato era comandato dal poeta Arnaldo Fusinato, un famoso poeta del Risorgimento. Adesso le sue poesie non sono più lette come una volta, ma al tempo delle mie elementari mi ricordo che imparai ancora a memoria la famosa poesia dell'assedio di Venezia, no? Che sul ponte sventola la bandiera bianca, no? Allora adesso sono cadute un po' andate di moda e peccato perché alcune cose si possono a mio avviso senz'altro recuperare. Ottenne il battesimo del fuoco quasi subito appena arruolato, si può dire, perché il 25 aprile, che è a Venezia la grande festa, il 25 aprile perché la giornata è dedicata a San Marco, il patrono della Repubblica Veneta, si scontrarono con gli austriaci a Pian delle Fugazze, qui al confine tra Roveretano, in montagna tra Roveretano e Vicentino, e riuscirono a sconfiggere gli austriaci. Dopo varie amnistie torna a Trento, sempre sotto gli occhi comunque vigili della polizia, allora decide di trasferirsi a Milano, combatte ancora la seconda guerra di indipendenza, poi lui si trova a Milano quando Milano viene annessa al regno di Sardegna nel 59 e lì può liberamente svolgere la propria attività politica, liberamente fino a un certo punto, perché lui era un convinto mazziniano, uno dei più mazziniani e repubblicani più estremisti, quindi se prima aveva gli occhi addosso della polizia e della gendarmeria austriaca, adesso aveva gli occhi addosso della questura italiana di Milano e dei reali carabinieri di Milano, perché le condanne a morte di Mazzini, per essere chiari, le condanne a morte di Mazzini non sono venute dall'Austria, sono venute dal Regno di Sardegna, parliamoci chiaro, diciamo che ad Aspromonte a sparare sui garibaldini non erano austriaci, erano i bersaglieri italiani, a Fiume nel 1920 a sparare sui generali annunziani non era la marina ungherese, era la marina italiana. Questo va detto non per buttare fango addosso, però bisogna riconoscere la verità, quello che è. Nella storia di ogni paese, di ogni popolo, di ogni nazione ci sono luci ed ombre, bisogna essere orgogliosi delle proprie luci e bisogna avere il coraggio di riconoscere le ombre, né più né meno, senza alcun complesso di sorta. Allora Zancani, sorvegliato questa volta dalla polizia e dai carabinieri italiani, nel 1860 si arruola con i mille. Dall'Alto Adige, per arruolarsi con i mille, erano scappate altre due persone, uno nato a Condino e studiava a Merano, si chiamava Oreste Barater, che italianizzò poi il proprio nome in Barattieri, come Zancani si chiamava Zancani e italianizzò il proprio nome in Zancani. Oreste Barater studiava a Merano, venne punito molto pesantemente, c'è ancora negli annali, in qualche archivio ci sono i documenti, venne punito perché durante la messa aveva, sembrava che leggesse il messale, invece leggeva le poesie del Giusti, no? Quando il studente, quando venne beccato, venne punito veramente. Con un suo amico che diverrà un famoso scienziato, Ippolito Pedrazzoli, che invece studiava al seminario di Bressanone, si mise e decise di scappare per arruolarsi con Garibaldi ancora nel 59, dopo la seconda guerra di indipendenza, e anche loro si trovarono a Milano. Barattieri, Barattieri partirà con i 1000, invece Pedersoli farà, non partirà con i 1000, ma diverrà un famosissimo scienziato, mi sembra un geologo e geografo, e divenne molto famoso nella seconda metà dell'Ottocento. Questi non erano altoatesini, ma partirono dall'Alto Adige per arruolarsi con Garibaldi alla fine del 59. Barattieri poi, dopo essere entrato, diventato ufficiale di Garibaldi, diverrà ufficiale anche dell'esercito italiano e farà una grande carriera, diventerà governatore della colonia Eritrea, ma la sua carriera verrà stroncata dalla sconfitta di Adua. È una sconfitta che, è abituato a vedere magari la storia come con degli aspetti anche simbolici, vedrà che con nel 1896 esce dall'esercito l'ultimo ufficiale proveniente dalle file garibaldine, esce dalla politica l'ultimo politico proveniente dalle file garibaldine, Crispi. Barattieri viene sostituito come governatore della colonia Eritrea dal generale Baldissera, che era un ufficiale dell'esercito austriaco che nel 1866 liberato, era friulano, liberato il Veneto, passò perché la legge allora lo permetteva, dall'esercito austriaco all'esercito italiano. C'è da riflettere su determinati fatti della storia. Allora, con i 1000 viene ferito più volte, viene ferito leggermente a Calatafini, viene ferito seriamente alla famosa battaglia del Ponte dell'Ammiraglio a Palermo, il 27 maggio, la liberazione di Palermo. La battaglia del Ponte dell'Ammiraglio è stata immortalata in uno dei più famosi quadri di Cutuso, che è ancora oggi è molto molto apprezzato per l'idea della battaglia che ha saputo dare in maniera moderna. Cutuso è un pittore contemporaneo, non è un pittore dell'Ottocento. E non rimane, pur essendo sottufficiale, non vuole rimanere nell'esercito sardo e poi subito dopo italiano, proprio per le sue idee repubblicane. È un errore in cui sono in corso anch'io, ma leggendo il suo diario ho potuto appurare che non è vero, non partecipò all'impresa di Aspromonte. L'errore nasce dal fatto che lui, essendo in contatto con la fazione più estremista dei mazziniani e dei garibaldini, andava in giro a raccogliere denaro per i reduci di Aspromonte, per sostenerli dal punto di vista delle spese legali, perché molti vennero processati, subirono dei processi non indifferenti, e tanti che erano magari stati militari perso il lavoro, vennero congedati d'imperio. E per fare questo Zancani, che abitò un certo periodo a Genova, fece una cosa avveniristica per l'epoca, perché non esistevano ancora le cartoline come le intendiamo. C'è un famoso quadro di Induno, la discesa di Garibaldi da Aspromonte. Lui lo fece fotografare a tipo cartolina, in due dimensioni, uno tipo cartolina, uno un po' più grande, e andava in giro a vendere queste cartoline per raccogliere denaro per la causa dei reduci di Aspromonte. Tante cose della vita di Zancani non si sanno, perché essendo a contatto con queste fazioni molto estremiste, agiva sott'acqua, agiva di nascosto, era in contatto con Ergisto Bezzi della Val di Sole, un altro garibaldino e mazziniano estremista. Ergisto Bezzi avrebbe potuto poi morire nel 1920, ma avrebbe potuto essere, per i suoi meriti redentistici, essere o eletto in Parlamento o addirittura essere nominato senatore del Regno. È uno di quelli che rifiutò proprio per le sue idee repubblicane, disse: io non voglio avere niente a che fare con la monarchia. E vanno, e chi fa così va, a mio avviso, rispettato. Io non condivido questo estremismo, però va rispettato, perché sono gente che, quando fa una scelta, paga di persona, non fa pagare gli altri, perché noi siamo abituati a gente che fa scelte, però queste scelte sbagliate o giuste che siano le fa pagare agli altri normalmente. Lui si mette il sedere al caldo, scusate la volgarità dell'espressione. Invece gente come Zancani, Bezzi, così, pagarono sempre di persona la coerenza delle proprie scelte. E appunto tante cose non si sanno. Nel 64 doveva scoppiare un'insurrezione, che sia in Trentino che in Veneto che in Friuli, poi in effetti scoppiò solo in Friuli. Signor Lirussi, abbiamo parlato di questi fatti al Fogolar Furlan, no? E uno dei capi di questa insurrezione in Friuli era un antenato dell'ingegnere Franceschini, che Giobatta Marioni, un garibaldino e mazziniano e friulano. E scoppiò solo in Friuli, in Trentino non scoppiò, perché normalmente queste società pseudo segrete erano piene di spie che riferivano tutto alla gendarmeria o alla polizia italiana. Viene in mente una una novella, se non l'avete letta è molto divertente, di Gilbert Keith Chesterton, quello che ha scritto i racconti gialli di Padre Brown, no? Una novella si intitola L'uomo che fu giovedì. La polizia tiene sotto controllo, insomma, vorrebbe tenere sotto controllo una pericolosissima cellula anarchica, i cui membri, i nomi non si sanno, hanno il nome e lo pseudonimo di un giorno della settimana, no? E l'uomo che fu giovedì, appunto un agente segreto della polizia che si chiama Giovedì, riesce a infiltrarsi nella cellula anarchica. Allora con grande fatica fa arrestare il primo, che è lunedì, e si scopre che anche quello è un infiltrato della polizia, martedì anche, eccetera, e il capo della cellula anarchica era il capo della polizia alla fine. Ecco, è una novella che è un po' un apologo, e così, però è successo un po' anche nella realtà, perché il primo arresto di Mazzini avvenne in maniera analoga. Il capo della carboneria genovese era in realtà un informatore della polizia, andava a istigare i giovani universitari o laureati da poco come Mazzini. I giovani hanno sangue caliente, si lasciano subito trascinare, soprattutto quelli, poi gente che sa parlare bene, si lasciano trascinare subito dalle buone idee, soprattutto se ben espresse, e poi dopo, quando ne aveva coinvolto un po' di giovani, tra cui lo stesso Mazzini, questi pseudomoti, li ha fatti arrestare. Fu allora che Mazzini, rinchiuso alcuni mesi nella fortezza di Priamar a Savona, decise che non avrebbe più avuto nulla a che fare con società segrete, ma avrebbe fondato un partito politico in senso moderno, che sarà la Giovane Italia. Chiedo scusa se faccio queste parentesi, queste divagazioni, se vi annoio ditevelo. Allora, dopo il fallimento della cospirazione per promuovere un'insurrezione nel Trentino, scoppia la terza guerra di indipendenza, si arruola, questa volta è ufficiale, Zancani non più sottufficiale, e si trova a rimanere gravemente ferito nel combattimento di Condino. Lui a piedi con alcuni garibaldini si trovano ad affrontare una carica di ulani austriaci. L'ufficiale comandante degli ulani austriaci era un trentino anche lui, no? Cioè, si vede proprio anche simbolicamente il cozzo tra due maniere diverse di concepire la propria identità trentina. Gli passano sopra i cavalli, sopravvive per miracolo Zancani, e da allora però non è più lui. Incomincia a perdere la ragione anche da scritti e da lettere che ha mandato anni dopo queste cose qua. Ecco qua, sì, in questi ultimi anni di vita, lui morì nel 1888, non era più in sé e cominciava a sragionare e a straparlare. Morì dimenticato da tutti a Venezia il 26 dicembre 1888. Le sorelle da India si erano trasferite a Venezia già da diverso tempo prima, e in casa sua non si trovò un soldo, dice il presidente dei Reduci dei Mille, che scrive a Crispi, uno dei Mille, anche lui era ancora al governo, e i poveri funerali glieli paga praticamente lo Stato. E le cose di Zancani: morì in casa degli antenati della moglie di questo signore che mi ha mandato il diario, e così potremo riscoprirlo in un libro molto migliore, molto più completo di quello che pubblicai nell'88. E a me la cosa che avrebbe piacere è che Zancani venisse ricordato anche a Degna, perché secondo un articolo del giornale La Perseveranza, era un giornale moderato che Zancani non poteva vedere, però ci collaboravano anche dei trentini su questo giornale moderato, e in un articolo pubblicato in sua morte si ricorda il fatto che a un collaboratore della Perseveranza, quello che scrisse l'articolo, Zancani disse che avrebbe, e anche lì non c'era motivo che mentisse, è sicuramente vero, che gli sarebbe piaciuto portare le sue, dice, crivellate ossa, perché aveva avuto tante ferite di guerra, nel cimitero di Egna, a cui tutto sommato è rimasto legato. Allora mi farebbe piacere che a Egna ci fosse qualche cosa che lo ricordasse, perché al tempo del fascio hanno fatto un monumento dello scultore Luigi Canero, un bellissimo monumento che poi sparì. In epoca nazista sparì fino a un certo punto, perché venne allontanato e venne portato in comune. Poi dopo, nel dopoguerra, venne portato al Museo del Risorgimento di Trento. Io ho visto delle foto dalle sale del Museo del Risorgimento con il busto di Zancani. Poi, rifatto il museo, è sparito completamente il busto, che era un'opera d'arte abbastanza pregevole, di Luigi Canero. Qui ci sono Tolomei a inaugurare il busto, poi mi pare che ci fosse anche, perché parlai con gente di Egna che aveva partecipato all'inaugurazione Federzoni. Federzoni era un esponente del Partito Nazionalista che poi aderì al fascismo. Quello lì è indubbiamente Tolomei, quello con la barba bianca, no? Poi Federzoni, questo qua è Tolomei, no? E poi dice di essere Federzoni e così. Sarebbe bello che Enya, adesso i tempi sono cambiati e sono tornati più tranquilli. Ah sì, Tolomei c'è anche scritto. Sì. E poi è strano perché il monumento venne, mi sembra che venne inaugurato due volte, no? Dopo quella volta lì venne spostato e venne rifatta un'altra inaugurazione. Poi a Enya era dedicata la scuola elementare lingua italiana, è dedicata a Camillo Zancani fino a dopoguerra, adesso poi hanno cambiato, è intitolata a Collodi, perché no, a me piace. A Marco Polo. A Marco Polo, a Marco. Collodi è ora. Collodi ora, vedi, mi sbaglio. Vabbè, comunque sia Collodi che Marco Polo godono della mia stima, però anche se ci fosse qualche cosa che Collodi è un combattente del Risorgimento, viene ricordato come l'autore di Pinocchio, però combatté a Curtatone e Montanara nel 49, volontario del Risorgimento, anche Collodi. E sarebbe bello che ci fosse qualche cosa a Enya che lo ricordasse. E mi adopererò, se qualcuno mi può aiutare presso le autorità municipali di Enya a far sì che questo avvenga, avrà tutta la mia riconoscenza e gratitudine. Non è giusto, ha scritto Carlo Marx, un autore che non è il mio preferito, io sono un mazziniano, non estremista come Zancani, ma sono un mazziniano di ferro, come Carlo Marx, un autore che non ammiro molto, ha scritto però una frase tanto giusta: l'ignoranza non è mai stata utile a nessuno. Giusto, qualcuno può dire no, è stata utile, anche a qualcuno non è stata utile, però quindi è giusto che ricordiamo tutti gli aspetti della storia della nostra provincia. E la piccolissima parte che ha avuto nel Risorgimento non va assolutamente dimenticata. Vi chiedo scusa se vi ho annoiato, vi ringrazio per l'attenzione e se io che l'amico Christoph siamo disponibili per, se, speriamo che sia qualche domanda dal pubblico. Se c'è qualche domanda vuol dire che va interessato, se non sono domande vuol dire che non è andata bene. Grazie comunque dell'attenzione. Prego. Non c'è nessuno. Siamo stati così chiari che non. Una cosa, nei giorni scorsi, non mi ricordo se l'ho sentita al telegiornale o l'ho letto su qualche lista, e è venuta fuori questa notizia che quella piazzetta che c'è a nord della Piazza Larga, come si chiama? Cernesi. Sì. Raffaello Sernesi, adesso posso anticipare. No, posso anticipare qualche cosa. Raffaello Sernesi è sepolto nella parte militare del cimitero di San Giacomo. E Raffaello Sernesi con l'amico Marangoni, che è qua presente, che è presidente del circolo culturale La Stanza, che fa delle iniziative culturali poche ma di gran pregio e molto mirate, vorremmo tra l'estate e l'autunno fare una, portare a Bolzano riproduzioni ovviamente delle opere di Raffaello Sernesi. Era un pittore macchiaiolo, venne ferito, mi sembra anche lui al combattimento di Condino, quello venne ferito anche Zancani, e morì all'ospedale di Bolzano, e allora si entrava proprio da Piazza Sernesi quando morì. Quindi possiamo però dire che quella piazza non ha mai avuto nome, c'è una via Sernesi, sì, e che poi la gente passando è una piazza di, sì, troviamoci, sì, la fermata della Sarda, sì, sì, sì, infatti c'è via Sernesi, c'è, sì, e non c'è più piazza Sernesi, che è chiamata Piazza Università, piazza, perché, siccome non, sì, aveva nome, non dovevano toglierlo nessuno, sì, l'hanno data all'università, data all'università. No, però via Sernesi è la via accanto, e c'è la lapide, no, che sta, tanto via Leonardo da Vinci, no, no, c'è via Sernesi. C'è via Sernesi, via Leonardo da Vinci e l'altra. Via Sernesi, via Leonardo da Vinci, si incontra. No, non so dov'è, ma credevo che fosse tutta via Leonardo da Vinci. No, è via Sernesi. Sì, da Piazza Americana. Va in via Leonardo da Vinci. No, no. No, è la via che appunto da Piazza Domenicani fino a Piazza Università. Sì, questa è la via Sernesi. Sono tre case. Questo è vero. La lapide è in via. La lapide è in via Leonardo da Vinci, sì, sì, sì. E la lapide che è stata recentemente ripulita al comune, perché con lo smog che c'è tende a, a scurirsi. Ma così è morto nell'ospedale, che l'ospedale che c'era, o perché il primo ospedale di Bolzano era dove c'è la posta. Sì, ma è morto dal 54 o 58, è lì dove è morto, oggi c'è l'università. È morto lì, è morto lì. Pensavo sempre che potesse essere morto nel primo. No, è morto lì, è morto. Non c'era più. Cioè, è lì, e lui, così come è morto, perché aveva rifiutato di farsi amputare. Era subentrata la cancrena e poi. Una scelta anche quella. Sì, vari garibaldini del 66 morirono in varie città tatesine, qualche d'uno meno famoso in Sernesi, anche a Bressanone, così. Ed è interessante, cose che ho ritrovato, come il sindaco di Bressanone, di allora, si chiama austriaco ovviamente, di Bressanone, curò questi garibaldini, quelli feriti, che quelli che morirono, tanto che sono delle lettere delle famiglie al sindaco di Bressanone che lo ringraziano per come sono stati trattati i feriti e i prigionieri. E combinazione, sarà una combinazione, il sindaco di Bressanone fu uno dei pochi sindaci del Tirolo che non aveva nessuna onorificenza per le cose fatte nel 66, che molti sindaci di località tirolesi che avevano dato parecchi volontari o che erano sul fronte così ricevettero delle onorificenze, il sindaco di Bressanone no. Sarà un caso, però è un fatto che venne universalmente riconosciuto l'umanità, per cui come ha trattato la città di Bressanone, ha trattato i feriti e i prigionieri garibaldini, alcuni dei quali morirono lì. Anche questo è uno dei fatti, diciamo, positivi della storia, non solo anche in mezzo alla guerra, così che ci sia un po' di un briciolo di umanità che rimane. Prego. Bisogna esprimere innanzitutto la mia così meraviglia, la mia comprensione, la mia ammirazione, ecco, per il lavoro che continuate a svolgere così anche sul Risorgimento, dove gli episodi sono numerosi, se non addirittura numerosissimi. Diciamo, è stato citato il Friuli, mi ricordo anche di certe così passioni friulane di Talma Sons, di Pacifici, se ricordo bene il cognome, di il direttore di giornale. Valussi, Pacifico Valussi. No, Pacifico è il nome, Valussi il cognome. Valussi. Sì, sì. E così via, arrivando anche appunto al Marioni. Giobatta Marioni, che era sicuramente in contatto con Zancani perché era uno degli organizzatori della rivolta, però tante cose non si possono dimostrare i contatti, perché chiaramente non è che tenevano un archivio, le lettere le bruciavano. Certo. Infatti mi meraviglia molto, ma mi meraviglia sempre il coraggio, la determinazione, la consapevolezza, così avere una fede politica come l'hanno avuto, perché pensando anche a certi spostamenti dal Friuli in Toscana, poi a Roma, poi giù nel Volturno e ritorno, sì. E poi a casa e poi riparti, e quindi abbandona tutto, vai volontario, eccetera. Quindi tante cose che ci fanno capire che veramente c'è stato un periodo dove credevano, insomma, di poter costruire un qualcosa di più unito. Sì, era l'epoca, quella dal 48 in poi, era l'epoca in cui il fattore nazione animava molto la gente. Poi dopo, quando il fattore nazione divenne becero sciovinismo, però all'inizio fu un fenomeno che servì anche a svegliare la gente, perché era crollato un vecchio mondo, si volevano trovare nuovi valori che legittimassero l'essere cittadini, e l'hanno trovato in nazione. Allora c'è da dire che l'odio tra nazioni è cosa di, diciamo, 40 o 50 anni successivo al 48, perché allora non c'era assolutamente, se non forse qualche matto così, l'odio tra nazioni. Garibaldi non odiava gli austriaci, lo posso anche dimostrare. Nel 67, quando il Danubio ruppe gli argini e invase i quartieri poveri di Vienna, che poi hanno fatto quei bellissimi argini del Danubio che ci sono ancora oggi, no? Anche questa è una meraviglia della tecnica, Garibaldi si fece promotore e raccolse denaro da mandare ai poveri viennesi alluvionati. Mazzini, oltre a creare la Giovane Italia, creò la Giovane Germania, la Giovane Polonia, poi un'altra associazione che però ebbe poco successo, la Giovane Svizzera, perché diverso era anche il contesto della Svizzera, che non è mai stato uno Stato nazionale ma multinazionale, quindi queste cose qua. Quindi l'odio tra nazioni non c'era assolutamente, venne dopo con una degenerazione. Ogni fenomeno, anche il più positivo, poi degenera, è degenerato nell'odio. Infatti siamo arrivati poi alle due guerre mondiali, dove man mano tutti questi valori ottocenteschi si sono sempre più diradati fino a arrivare, e oggi è così. Si potrebbero recuperare, perché c'è un autore austriaco che fu ufficiale austriaco durante la prima guerra mondiale e scrisse su Battisti, Karl Krause mi pare che si chiama, è una bella frase che tutti quanti dovremmo tenere a mente. Chi considera un farabutto, vedete che in italiano è l'originale, in tedesco, chi considera un farabutto il patriota dell'altrui patria è l'imbecille della propria. Ecco, sì, ed è vero. E gli uomini del Risorgimento non hanno mai considerato un farabutto il patriota dell'altrui patria. Questo è un insegnamento positivo del Risorgimento che ci viene, che dovremmo tenere sempre presente. E ci fu anche qualche episodio, soprattutto una piccolissima parentesi, che non so, che dimostra forse il malessere di chi per esempio si è trovato a dover indossare per esempio la divisa austriaca e quindi capire che avrebbe potuto trovarsi di fronte ai propri, sì, regionali, popolazioni italiane, quindi avrebbe dovuto anche obbedire, anche combattere, cioè, c'è per esempio un piccolo, non so come chiamarlo, tumulo vicino al cimitero qui di Bolzano, vicino alla cappella centrale sulla sinistra, con 50 metri, c'è un tumulo in porfido sopraelevato di Val di Fiemme, adesso sto pensando al cognome, ma mi sfugge un attimo, perché c'era una epigrafe, una lapide che ricorda come dopo aver avuto addosso la divisa austro-ungarica, in pratica io curai ma pochissimo, perché sembrava che è stato ucciso, comunque sembra che lui si sia espresso con pochissime frasi una sera con il suo sergente, e quindi per alcune frasi dette nella sera, l'indomani mattina fu subito processato e passato per le armi. E quindi, ma questa storia non la conosco, faccio per dire, la prima guerra mondiale. Sì, questa però adesso non ce l'ho presente, questa però rispondi, sì, tu. È una storia, è una sarcofago. Sì. Porto, non ce l'ho presente questa storia. È alto 1,5 metri circa. Sulla sinistra. Sì, entrando dentro sulla sinistra, e ha scolpito una foglia, da una parte c'è una spada, dall'altra parte c'è come un ramo con delle foglie, forse di Redauro, eccetera, e in fondo c'è l'epigrafe. Ma faccio per dire quanto malessere c'è stato, e quindi quanto anche, come dire, pagare di persona era più forte, era più immediato. In quel caso lì lui aveva l'idea di sentirsi italiano, aveva la divisa austriaca, e in una serata dove il sergente, forse anche perché forse aveva intuito qualcosa, quindi l'hanno un po' stuzzicato, eccetera, e quando venne il momento di brindare all'impero, lui disse che non si associava, e quindi per queste poche parole fu processato l'indomani mattina subito. Fu messo in piedi un eccetera eccetera, e fu passato alle armi, e non so se c'è sul palazzetto del comune forse una piccola lapide che ricorda. Questo è in Val di Fiemme, su cima. Io purtroppo non conosco la storia, magari la conosco. Dicendo che sì, insomma, senz'altro mi fa piacere capire che insomma non c'era l'odio, sì, tra le due patrie, le tre patrie, o no, chi aveva una patria o l'altra. No, il fatto, questo si può magari, il fatto è questo, che l'impero austriaco si è trovato nel 1914-15 a essere uno stato multinazionale quando si combatteva una guerra fortemente in cui gli slogan nazionalisti erano all'ordine del giorno. Possiamo fare un esempio più lontano da noi: interi reggimenti cechi si sono arresi senza combattere ai russi, o addirittura sono passati dalla parte dei russi, no? Tant'è vero che i cechi hanno sempre avuto la fama di essere poco bellicosi, e gli ungheresi, i loro commilitoni ungheresi, ogni volta che vedevano avevano un'uniforme poi diversa da quella dei cechi, leggermente diversa, ogni volta che vedevano un loro commilitone cieco e scoppiavano poi risse, saltavano così, alzando le mani, come uno che si arrende subito. Se avete letto, è un romanzo umoristico e molto divertente di Jaroslav Hašek, Le avventure del buon soldato Schweik, ci sono di questi episodi messi in chiave umoristico satirica, ma successero. E effettivamente anche le popolazioni che non erano, alcune popolazioni perlomeno che non erano di etnia tedesca, sentivano i richiami di altri nazionalismi. In Russia allora si predicava il panslavismo, no? La dottrina che voleva tutti i popoli slavi uniti sotto un'unica bandiera, eccetera, e aveva attecchito anche tra molti cechi, evidentemente. È chiaro, questa fu un'epoca. Poi ci fu chi i trentini che scapparono e si arruolarono nella Legione Trentina nell'esercito italiano, e i trentini invece che rimasero con l'esercito austriaco, fecero tutti quello che gli diceva la loro coscienza. Non bisogna dare la croce addosso a uno e la croce addosso agli altri. Mi è venuto capitato di leggere, non li ho comprati perché non voglio dare soldi, libri, ho visto il Val di Fiemme proprio che ha citato lei, fatti da ambienti degli Schützen trentini, in cui vengono qualificati Battisti e gli altri semplicemente come dei traditori, non è vero, non erano traditori Battisti e tutti quelli andati con l'Italia, non erano traditori anche quelli rimasti, anzi quelli rimasti molte volte obbligati a fare il loro dovere cercarono per quanto era loro possibile, che non era facile, perché ha raccontato lei un episodio che io non conoscevo ma che la dice lunga, di mitigare le condizioni dei loro concittadini costretti a subire il regime militare austriaco, perché la zona, molte valli del Trentino vennero completamente evacuate, portati in Boemia, in Galizia, in zone molto lontane da questo fronte, e rimasti dovettero subire un regime militare durissimo. C'è un libro pubblicato negli anni 20, basato su, è piuttosto obiettivo, pur essendo pubblicato con le emozioni ancora calde, ancora vive, Ricordi del Tribunale di Guerra a Trento, e lì si finiva in galera per molto poco, si viene nel Buon Soldato Schweik, che è un libro umoristico, l'oste dell'osteria al Calice di Praga, che esiste ancora, viene messo dentro per non aver pulito bene dalle cacche delle mosche, viene detto il ritratto dell'imperatore. Ma cose simili, non nel romanzo umoristico, sono successe anche nel Trentino meridionale. Una cameriera, un cameriere che ha detto una mezza parola sbagliata, portato al Tribunale di Guerra a Trento, magari non condannato a morte, però condannato a lunghe pene detentive per aver detto mezza frase, magari detta neanche senza motivi politici, solamente perché esasperato dal fatto che si trovava più da mangiare, così che si lamentava la situazione. Purtroppo erano tempi così, e quando c'è la legge marziale non è che la gente sta bene. Adesso in Siria è 40 anni che, pur non essendo in guerra, vige la legge marziale, e alla fine poi dopo la gente scoppia, no? Io ho appreso dai giornali che in Siria vige la legge marziale dal 1971, un paese in pace dove vige la legge marziale, e chiaramente che la gente sta sotto fino a un certo punto e poi il tappo esplode in qualsiasi regime. Non c'è. Prego. Volevo dire che l'impero austro-ungarico però è molto organizzato proprio su questo campo, tanto è vero che i soldati leva delle varie nazionalità venivano spostati nei fronti dove non c'era questo pericolo, tanto è vero che quando è scoppiata la guerra nel 14, sì, nel fronte galiziano ci andarono triestini e i trentini, cioè ci sono stati proprio reggimenti interi di Trieste e anche di Trento che furono mandati nel fronte galiziano. Chiaramente lì non mandavano i cechi e i polacchi. Sì. E invece, non so, per esperienza che ho avuto mio nonno di Trieste, che era schedato dalla polizia perché un irredentista, era politicamente infido, questa era la qualifica. Sì, sì. E nella prima ondata che hanno mandato in Galizia è riuscito a scappare, poi dopo l'hanno messo sotto la NAE, però sia lui che molti cecoslovacchi, come diceva lei, venivano messi poi nelle retrovie a fare tutti i lavori di retrovie, quelli che erano poi su cui non ci si poteva fidare molto, ecco, venivano utilizzati per questi lavori di i cecoslovacchi, i cechi, perché i slovacchi facevano parte dell'Ungheria e i cechi dell'Austria, erano detestatissimi. Io c'avevo uno mio zio acquisito, uno zio di mia mamma acquisito, è l'ingegner Karl Ernstberger, quello che ha fatto i progetti per quello che doveva essere il monumento alla vittoria austriaco, Onkel Karl, che ha. E lui era di Karlsbad, Carlo Vivari, oggi, no? E poi dovette, con sua moglie era parente di mia madre, e cacciati via da Karlsbad quando sono arrivati i sovietici, con una valigia solo, no? E odiavano a morte i cecoslovacchi. Quando mi ricordo questo, io ero ragazzino, avevo 11 anni, che sono del 57, l'Unione Sovietica invase la Cecoslovacchia, loro erano felici come Pasqua, anche loro, adesso anche i cechi provano quello che hanno fatto provare a noi. È strano, la stessa è accaduta a me, mio nonno che era sottufficiale dei Kaiser, io sono il 55, avevo già 13 anni, no? Era un po' più, lui mi ha detto, belli sta, così questa era nemesi per i tradimenti, quindi, della prima guerra mondiale. Vedi. Furono poi quasi tutti impiegati nell'industria bellica, perché la grossa industria dell'impero austriaco, sì, proprio in Cecoslovacchia, sì, le industrie Skoda, sì, Skoda, sì, sono tutte le armi che, sì, avevano, sì, sì, ma anche nella seconda guerra mondiale, sì, chi non si occupava di politica, faceva una brutta fine, ma chi non si occupava di politica nel protettorato di Boemia e Moravia stava bene, perché col fatto che c'erano tutte le industrie belliche, così li trattavano con un occhio di riguardo, perché la produzione bellica continuasse, sì, anche nella seconda guerra mondiale. Scusi, vorrei chiedere una cosa, riguardo al libro che lei scriverà, basato su questo diario? Sì, sarà il diario, poi farò con l'apparato critico, perché chi legge il diario capisca il personaggio citato, chi è un'introduzione biografica di Zancani. Io sarò il curatore, però uscirà con la firma Camillo Zancani, il diario, eccetera, eccetera. Adesso titolo ancora non glielo so dire. Io spero entro l'anno, perché se riesco a farlo entro l'anno, che c'è ancora interesse per i 150 anni dell'Italia, bene, se no sarà inizio l'anno prossimo. È un terzo, perché è una scrittura molto difficile. Lui l'ha scritto che era già malato, così. Io conosco la grafia di Zancani perché ho pubblicato i suoi inediti, o a parte quello, ho pubblicato anche sull'Archivio Trentino di Storia Contemporanea delle lettere inedite di Zancani. Però è una grafia veramente molto, molto difficile e massacrante, e facile sbagliarsi. Sono arrivato a trascriverne un terzo. Poi ci deve essere tutto l'apparato critico, perché tante cose che per Zancani a quel tempo erano ovvie, oggi non lo sono più. Parla della vista di Garibaldi in Inghilterra nel 64, e quelli che incontrano. Poi dopo alcuni nomi sono storpiati, perché lui l'inglese per esempio non lo conosceva, allora storpia il nome Recte, si dice così, sarà l'apparato critico, un'introduzione bibliografica, e poi dopo andremo a presentarlo. Conto molto sull'aiuto della dottoressa Trevisan per presentarlo anche qua, e spero che, siccome la dottoressa Trevisan mi ha sempre aiutato, è sempre stata molto gentile, così spero che mi darà anche questo aiuto. E mi scrivo subito, quindi no, scusa che non sono in scuola. Grazie. Arrivederci. Grazie a voi.